Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati, Bruxellando Radio Alma, martedì sera. È come sempre un piacere essere qui con voi per trascorrere un'ora, speriamo piacevole per tutti, in nostra compagnia, in compagnia di Dani M, in regia, che saluto. Ciao, buonasera a tutti. E le nostri Fiordaliso e George, che sono in arrivo. Insomma, Bruxelles è stranamente da qualche tempo veramente oltremodo... come potrei dire, è difficile, eh? Sta diventando una città difficile. Mi ricordo quando io sono arrivata qualche anno fa ormai, e la città era molto più tranquilla, invece soprattutto a quest'ora il traffico serale, devo dire che è un po' quasi una barriera, un ostacolo, tanto insomma è numeroso. E io sono molto contenta di tutta una serie di cose che continuano ancora a caratterizzare Bruxellando, delle tante mail che riceviamo di interesse, degli eventi che riusciamo a pubblicizzare. Insomma, sono veramente felice di notare che Bruxellando piano piano sta diventando veramente il punto di riferimento nella distribuzione degli eventi. Questa è una settimana abbastanza particolare, tanti sono gli eventi infatti che... discuteremo questa sera. E vi volevo anche segnalare che il previsto spettacolo di Beppe Grillo domani sera, del quindi 16 marzo, è stato posticipato al 25 maggio per ragioni che esulano anche gli organizzatori medesimi, e vi daremo poi tutte le informazioni necessarie sul nostro blog, ove potete rinvenire le modalità di rimborso anche del biglietto. Ci tenevamo a segnalarvi un'apertura, magari tanti di voi stanno rientrando a casa e spero siate sintonizzati sulla nostra frequenza, e quindi insomma non vi preoccupate, lo spettacolo è stato semplicemente posticipato per ragioni organizzative. D'altronde il successo di Beppe Grillo è stato veramente straordinario, i biglietti sono sold out già da un bel po'. Aspettando quindi i nostri Giorgio e Imola, iniziamo già con il nostro ospite serale. Io sono particolarmente lieta di parlarvi di Marco Bosonetto. L'ho conosciuto attraverso la libreria Piola, e ne approfitto anche per salutare Jacopo, e sono rimasta veramente piacevolmente colpita dallo stile di Marco, un po' probabilmente per l'ironia tagliente, per quel terzo occhio, come direbbe qualcuno, in cui è riuscito a fotografare l'Italia del presente, e in un'ottica poi anche abbastanza futura, tant'è che lui parla di un heli scooter oppure di un cellulare che è una sorta di guanto palmare. Nel grande show della democrazia è stata una delle più belle sorprese letterarie per me di questo 2011, e devo dire sono contenta, perché parliamo dell'Italia, l'Italia che è descritta qui nel libro. Effettivamente è un'Italia abbastanza particolare, che vive per l'appunto proprio in questo grande show della democrazia, in cui i protagonisti sono vari e diversi, ognuno con un ruolo anche abbastanza, oserei dire, importante rispetto ai differenti ruoli che si ritrovano nella società. Non voglio dilungarmi oltre, perché altrimenti lascerei anche un po', insomma, vorrei che fosse Marco piuttosto a parlarci del suo scritto. Marco è uno scrittore giovanissimo, ha già scritto varie cose: Il sottolineatore solitario, Nonno Rosenstein, Nega tutto, Requiem per un'adolescenza prolungata, e suo è anche Morte di un diciottenne perplesso, edito da Baldini Castoldi da Lai nel 2003, da cui il regista Alessandro Aronadio ha tratto Due vite per caso, unico film italiano immaginato in concorso al Festival del Cinema di Berlino del 2010. Marco si è anche cimentato per il teatro, per cui ha scritto il pluripremiato Mucche Ballerine nel 2006. E tra l'altro ci tengo anche a ricordarvi che proprio giovedì sera Bruxellando incontrerà personalmente Marco in un'intervista presso la libreria Piola da Avenue Franklin 66, quindi nel cuore delle istituzioni a Bruxelles, e noi tutti siamo veramente felici di poter fare anche la conoscenza di Marco personalmente. Marco! Sì, ciao! Benvenuto! Grazie! Spero tu possa ascoltare bene la mia voce, perché ho un ritorno in cuffia abbastanza... Mi senti? Io ti sento bene. Ah, perfetto. Benvenuto a Bruxellando. Grazie. Ti ringrazio della disponibilità, insomma ci siamo organizzati abbastanza rapidamente. Uh-huh. E ti ringrazio insomma di essere nostro ospite qui questa sera. Prima di passare al tuo romanzo nel grande show della democrazia, c'è qualcosa in particolare che vorresti raccontare sul tuo percorso di scrittore, su, insomma in generale, ecco, ti lascio veramente carta bianca. Ma questo è il mio quinto libro, sono il mio esordio risale al 1998 con Inaudi, è un romanzo che si chiamava Il sottolineatore solitario, poi ne sono seguiti un altro romanzo, poi una raccolta di racconti, Morte di un diciottenne perplesso, e poi altri due romanzi. La cosa che forse più carina che mi piace dire è che da Morte di un diciottenne perplesso, questo racconto che dà il nome all'antologia, è uscito anche un film, è stato tratto un film che si chiama Due vite per caso, di cui io sono co-sceneggiatore, che è stato presentato al Festival di Berlino nel 2010. Tu dici di essere stato co-sceneggiatore, magari mi permetto di farti già immediatamente una domanda: che cosa cambia a livello proprio di scrittura nel passaggio da un romanzo ad una sceneggiatura? Qual è stata la tua prima impressione? Ma sono cambiate molte cose, alcune giustissime credo, cioè il linguaggio è diverso, bisogna far vedere le cose più che spiegarle a parole. Poi invece ci si scontra anche con problemi produttivi, tipo nel caso di questa storia in particolare, il protagonista risulta decisamente più vecchio di quello che è il protagonista del racconto, perché l'attore che ha accettato di farlo non era un diciottenne, bensì un ventitreenne, di conseguenza bisognava spostare tutta la sua esperienza più in là negli anni, e questa forse non è stata una scelta esattamente artistica, ma più di una necessità produttiva, e queste sono cose che destabilizzano un po' rispetto alla scrittura letteraria in cui tu sei totalmente padrone di quello che fai. Quando hai visto il film, che cosa hai pensato? Ti sei ritrovato nelle diverse scene del film? Hai ritrovato Marco anche lì? Sì, no, assolutamente sì, anche perché col regista poi si è creata una vera amicizia, quindi ho potuto seguire la realizzazione della sceneggiatura, poi anche sono andato qualche volta sul set, mi sono riconosciuto totalmente, pur nella differenza rispetto a quello che avevo scritto, è un'esperienza che mi è piaciuta molto. Allora, parlando di stile, visto che abbiamo proprio cominciato in questo modo, mi sembra di rivedere anche nel grande show della democrazia un po' un'impostazione teatrale, è un'impressione oppure confermi? Ma in realtà io ho lavorato anche per il teatro abbastanza casualmente, cioè su commissione ho scritto un monologo che ha avuto anche parecchie repliche, che si chiama Mucche ballerine, per un'attrice franco-italiana, diciamo, che però è stata un po' la mia prima esperienza teatrale, che però mi ha molto segnato, insomma, mi ha insegnato a scrivere i dialoghi, per esempio, così. Uh-huh. Che probabilmente era un po' il mio limite in precedenza. E in effetti nel grande show della democrazia ci sono alcune parti, me ne viene in mente una in particolare, in cui sono delle, una in particolare è proprio una piccola pièce con i quattro protagonisti che parlano, e per diverse pagine non ci sono discorsi indiretti, ci sono solo dialoghi, quindi sì, hai visto giusto, ogni tanto mi piace virare verso il teatro anche nella forma romanzo. Allora, ci sono tanti aspetti di cui potremmo parlare di questo tuo romanzo, che, come dicevo in apertura di trasmissione, devo dire la verità, per me è stata veramente una piacevolissima sorpresa. E ci sono due elementi su cui però magari questa sera potremmo dilungarci un po' in più. Parto da quello meno importante, che però è significativo per noi italiani, che è l'adolescenza prolungata. E il secondo invece, che poi è il tema centrale insomma del romanzo, questo show legato alla democrazia e gli strumenti che tu hai immaginato effettivamente in questo ipotetico futuro, quindi quello del televoto per eleggere i propri rappresentanti, in realtà poi non è poi così forzata come, diciamo, come immagine relativa anche a quello che sta accadendo oggi in Italia. Dicete tu su quale dei due fronti vuoi magari cominciare a rispondere, se prima sull'adolescenza o prima sulla democrazia? Sull'adolescenza prolungata, in realtà tra l'altro questa è una sorta di sequel, il grande show della democrazia segue un altro romanzo più breve che si chiama Requiem per un'adolescenza prolungata, dove compare uno dei protagonisti poi di Il grande scienza della democrazia, ed è sicuramente un tema molto importante della cultura italiana. Noi siamo probabilmente quelli in Europa e chissà, forse nel mondo, questo però non saprei dirlo, che escono di casa più tardi, e questo per motivi anche economici, cioè di difficoltà di potersi rendere autonomi, ma anche per un problema culturale, psicologico molto forte. Insomma, siamo mammoni, oppure, per usare la parola che uso all'epoca il ministro Padoa-Schioppa, bamboccio. Certo. Cioè, però sai, da qui a immaginare addirittura l'istituzione di una forza, direi, armata per sradicare l'adolescenza, insomma il passo non è poi così immediato. Sì, appunto, la cosa che aggiungo io a questo discorso, che trattano già sociologi ed altri, è che lo Stato italiano di qui a qualche anno inventi una polizia, un ramo della polizia fatto apposta per aiutare le famiglie a cacciare di casa i loro bamboccioni. In realtà dopo che il libro è uscito, mi sembra all'inizio del 2010, il nostro tuttora ministro Brunetta disse che bisognava fare qualcosa, pagare le famiglie per mandare fuori di casa i diciottenni. Insomma, ricordo che quella che a me era sembrata un'idea inventata, fantascientifica, una provocazione, poi non era poi lontana da una proposta autentica di un nostro ministro. Così come, così mi collego alla seconda domanda, quella che credevo fosse un po' una iperbole della situazione politica italiana, l'idea che si elegga il ministro unico, io lo chiamo così, sì, certo, con il televoto, hai ragione tu a dire, non è così lontano dalla realtà, nel senso che la televisione gioca un ruolo fondamentale nel formare l'opinione politica italiana, probabilmente non solo italiana. Chiaro che noi siamo gli unici, forse l'unico paese al mondo, l'unica democrazia al mondo, chiaro, le dittature sono un'altra cosa ancora, in cui il Presidente del Consiglio è anche il padrone delle televisioni private più il controllore di quelle pubbliche, quindi siamo molto vicini a quella fantascienza che io ho usato. Tra l'altro c'è un collegamento molto interessante che tu fai nel romanzo. Uno dei protagonisti ha come ambizione quello di scrivere racconti di fantascienza e, nemmeno a dirlo, il ministro unico prende proprio ispirazione, insomma frugando poi anche nella vita privata di questi ultimi, per lanciare alcune delle sue idee. Quindi un link, voglio dire, come perciò ti ho detto prima, il teatro, no? Mi sembrava esserci un link molto chiaro del teatro nel teatro, rispetto alla relazione di questi due protagonisti. Quindi voglio dire, questo elemento fantascientifico ritorna poi utile anche nel raccontare poi la storia stessa. Sì, c'è questa guerra del corpo del ministro unico, che diventa anche l'amante del ministro unico, e lo scandalo sessuale successivo alla scoperta di questa relazione costringe il ministro unico a rimettersi. Questo guerra del corpo scrive racconti di fantascienza. In uno di questi inventa che esista il Dipartimento Pace Sociale, lo chiama così, che è un settore dei servizi segreti, sì, potremmo dire, che paga dei finti disoccupati, delle persone per fingersi disoccupate, e in questo modo, ciondolando in giro per le strade con l'aria derelitta e disperata, ricondurre i salariati veri a più miti consigli se pretendono di avere qualcosa di più, no? Certo, certo. Più soldi, contratti migliori, eccetera. L'idea è, se si vede che c'è questa disperazione in giro, gli altri si accontentano di quello che hanno. E il ministro unico legge questo racconto e dice: ma è geniale, perfetto per mantenere davvero la pace sociale nel mio paese, e lo applica, lo fa diventare una cosa vera. Tra l'altro, proprio andando avanti quindi nella storia, legandoci a quello che stavamo dicendo proprio su questo show della democrazia, è incredibile come questo ministro unico venga sostituito da un altro ministro unico che assomiglia tantissimo al precedente. Sì, il suo imitatore, per la precisione. Esatto. Sì, io immagino che ci siano le elezioni, o meglio le tele-elezioni una volta all'anno, e che da un anno all'altro chi è stato eletto non abbia nessun tipo di controllo, governa in piena autonomia, non c'è il Parlamento, non ci sono altre istituzioni di controllo. A un certo punto colui che ha vinto per 5 volte di fila, il protagonista direi principale del libro, Marco Dell'Elmo, deve dimettersi per questo scandalo sessuale e si presenta alle elezioni successive colui che è diventato famoso per tutti gli italiani come il suo imitatore comico, e vince perché in qualche modo è riconoscibile, no? Non c'è bisogno di affaticarsi troppo nel riconoscerlo, e lui vince, ma questo gli crea anche un problema, perché nessuno lo riconosce davvero come lui stesso, ma come la copia di qualcun altro. E da lì scatta anche un po' il plot principale del esatto. libro, che è il tentativo della copia di distruggere il suo originale. Però questo tutto sommato in maniera, tu lo racconti in maniera divertente, però se analizziamo poi insomma quello che accade politicamente, dai, lo possiamo dire, io non amo parlare di politica in radio, però quando guardiamo a molti dei programmi elettorali, soprattutto in alcuni periodi, ci rendiamo conto che tra una legislatura e un'altra sono tutte fotocopie l'una dell'altra. Quindi tutto sommato la metafora tu la metti in maniera molto più carina, però regge anche molto bene se paragonata alla realtà. Purtroppo sì, è difficile poi quando si va a guardare i programmi trovare grandi differenze, che non significa che siano tutti uguali, questo ragionamento io non lo faccio, io quando si tratta di votare ci vado e... Beh certo, assolutamente, poi sì, assolutamente. Sembra di poter vedere una differenza, però è una differenza... purtroppo sempre più sfumata. Togli una curiosità, il fatto che tu faccia iniziare i fatti a settembre non ha nessun legame con quello che è accaduto in Italia in un altro settembre, in un altro anno, in un'altra epoca? Ah, no. 8 settembre, non so, 8 settembre. Bravo! Il viaggio da quelle parti. Sinceramente no, perché appunto l'ho vissuto un po' come un indovinello. Ah, ecco. Vabbè, ho risposto esattamente, sono contento. No, in realtà no, non ho pensato. C'è semmai questo rientro dalle vacanze che ho capito, c'è la scena iniziale, insomma, sì, sì. Questa migrazione autostradale a cui si accoda anche Marco Dell'Elmo, appunto l'ex ministro, sì, in sì. autostop. È vero che nel finale c'è una scena che può far ricordare la ribellione, certo, esatto. E però proprio se vogliamo fare le citazioni, lì è il luglio 1943, quando in effetti uno delle prime persone a chiamare alla rivolta fu Tancredi Galimberti, da Cuneo, della mia città. Ah, e il balcone che a un certo punto appare alla fine del libro, sì, è il suo. Ah, quindi lì c'è un riferimento preciso, allora, sì, quando lasciano la macchina e vanno, ho capito. Ci sono altre due cose, ahimè, purtroppo il tempo in radio è veramente tiranno, però poi giovedì sera magari potremo approfondire più nel dettaglio gli argomenti. Ci sono altri due elementi, tu già li hai un po' accennato, li hai accennati a passare, e uno è proprio sul finale, perché emergono dei bambini. Questo non è un romanzo, poi d'altronde è un romanzo basato solo sulla storia di Marco Dell'Elmo e del suo, diciamo, successore, ci sono anche tante altre storie che riesce a raccontare benissimo, che rappresentano molto bene l'italiano medio, tra virgolette. Però c'è l'introduzione poi nel finale dei bambini che guidano Marco Dell'Elmo verso questa premiazione del calciatore dell'anno. C'è un legame specifico magari nei bambini visti come la speranza, come il futuro, come la speranza di poter migliorare questo nostro contesto democratico? Sì, sicuramente sì, non è casuale che siano dei bambini a guidare Marco Dell'Elmo verso la sua chance di redimersi, poi in realtà è questa festa del tifoso dell'anno. Il tifoso dell'anno? Sì, purtroppo è una chance che Dell'Elmo rifiuta, perché fa una scelta diversa da quella del seguire l'amore banalmente, e quindi non sarà lui a cambiare, però questi bambini che l'hanno aiutato forse sì, chi lo sa. Hai letto bene comunque la simbologia, diciamo così, è un po' quella, forse il futuro ci riserva qualcosa di meglio. Però l'elemento geniale che poi, con il quale si conclude il romanzo è poi la scena, quella in cui si mescolano veramente poi le carte, e Marco Dell'Elmo che si rialza in piedi dopo un attentato all'uno dei due, perché giustamente Marco Dell'Elmo doveva essere eliminato. Non diciamo nient'altro, insomma, lasciamo poi ai lettori la curiosità di leggere Nel grande show della democrazia, però io ho trovato quel passaggio veramente, ti faccio i complimenti, fantastico. Grazie, incasso il complimento. Perché e poi la conferma di questo grande show della democrazia, in cui poi Dell'Elmo si rialza e dice: ora vi prego di arrestare, insomma, quello che è, per non raccontare la storia così com'è. Mm-hmm. Lui che si rialza e quindi si riprende anche l'identità, in un certo senso. Mm-hmm. Che gli era stata indebitamente sottratta. Io vorrei però salutarti con la lettura di un brano che è relativo poi che si trova nella quarta di copertina del tuo libro, e sarà il nostro George a leggerlo, perché credo dia un po', possa dare un po' l'idea del romanzo in sé. Quando mi sono trovato a incontrarlo davvero, il popolo, a starci dentro come un pezzettino di popolo uguale agli altri, in strada, sugli autobus, negli ospedali, nelle file agli uffici pubblici, al mercato, sulle spiagge, nei bar affollati, nei negozi sabato pomeriggio, a starci dentro senza la protezione di mia madre o di uno stipendio superiore alla media, mi sono accorto che era ben diverso da come me l'ero immaginato, fantasticando di diventarne un eroico tribuno. Il popolo era brutto, cialtrone, prepotente, vigliacco, bugiardo, viscido, grasso, avido, falso, razzista, egoista fino al midollo, ladro, servile e terrorizzante. Il popolo era uno schifo. Marco, noi ti ringraziamo una ancora. Una bella quarta di copertina, tanto bene. Grazie a voi. Grazie. Ricordiamo quindi Marco Bosonetto, Il grande show della democrazia, edito da Laurana Editore. Vi segnalo che le copie del libro sono anche disponibili presso la Libreria Piola, e vi ricordo che Marco sarà nuovamente ospite della Libreria Piola e di Bruxellando giovedì alle 18.27, quindi per quanti fossero a Bruxelles e avessero desiderio di incontrare Marco, avere una copia autografata del libro, ovviamente siete tutti benvenuti giovedì sera alla Libreria Piola. Assolutamente sì, anche perché in quell'occasione Giorgio Luan, che stasera non ha aperto bocca praticamente, aprirà bocca, aprirà chissà, forse il vaso di Pandora. No, perché noi ne parliamo mai di politica, ovviamente Bruxellando per nostra scelta, però insomma al di fuori di Bruxellando. A microfoni spenti, ognuno dice quel che gli pare, e potremmo fare una bella analisi sul dove, il come, il quando e il perché. Per salutarci, Marco, cosa bolle in pentola? Storie per bambini. Esatto. Sto lavorando a un romanzo per ragazzi e una storia breve per bambini. La politica in effetti ha fatto un po' fatica a pubblicare questo libro, quindi magari adesso cose leggere. Benissimo, noi ovviamente ti auguriamo tutto il meglio, ti auguriamo un buon viaggio qui a Bruxelles e ci vediamo quindi giovedì sera. Un'ultima domanda velocissima, scusa, mi parlavi di una caduta per uno scandalo sessuale. Chiariamo che era uno scandalo omosessuale. Sì, quello sì. Quello sì. E chiariamo anche che il mio libro è precedente. Bene, abbiamo già detto tutto. È anche uscito prima. Abbiamo già detto tutto. Non è un instant book. No, in nessun modo. Sì, ti ringrazio, Giorgio, per chiarito il punto, ma in realtà è totalmente diverso l'argomento. Sì, certo, quindi, già, insomma, infatti. Parliamo di cose diverse. Marco, grazie, ti auguriamo ancora un'ottima presentazione, perché so che tra qualche minuto sarai presente altrove, quindi veramente ti ringrazio a nome di tutti doppiamente per la tua disponibilità. Grazie a voi, davvero. Buona serata. A presto. Nuovamente qui Bruxellando, Maridì, sono George, l'avete già sentito poc'anzi, però ne approfitto proprio per salutarlo, così come il Galateo richiede. George, benvenuto. Grazie. Anche ad Imola. Quindi questa è una settimana, come dicevamo prima, piena di eventi, ricca di tante cose interessanti, tra cui giovedì St. Patrick Guinness Irish Festival di Bruxelles. Come sapete, Bruxelles comunque vive di queste molteplici realtà che provengono da tutti i 27, non solo gli stati membri, e tra le feste più importanti, quelle che si ama comunque celebrare un po' tutti insieme, c'è anche quella di St. Patrick, questo santo probabilmente non solo irlandese, ma comunque insomma che è un po' l'icona irlandese, quindi per tutti quelli che vogliono scatenarsi ai ritmi delle musiche irlandesi, vi consigliamo di recarvi al Loft Brussels Schumann Hotel a Place Jean Rey a Etterbeck. Le tariffe insomma sono abbastanza modiche, quindi dai 5 ai 12 euro, e potrete sicuramente godere di una piacevolissima serata americano-irlandese proprio in occasione della festa di St. Patrick. George, dimmi. Gianni M, tu che sai tutto, perché si festeggia St. Patrick? Come, perché si festeggia St. Patrick? In Irlanda. Perché è il patrono dell'Irlanda. Però ci sarà un motivo per cui è il patrono dell'Irlanda? Per i fuochi di Sant'Elmo. Beh, Daniele, dovresti saperlo, se hai fatto la domanda. No, io ho fatto la domanda perché io volevo attingere dalla sapienza di George. No, non lo so perché San Patrizio è il patrono dell'Irlanda. Questa è una gran bella domanda. Perché è lui che ha convertito l'irlandese al cristianesimo. Meno male che c'è feudalismo. Da cui deriva il posto di San Patrizio? No, non c'entra niente. Con la sua immensa cultura letteraria. In che anno era? Sicuramente era molto prima del Medioevo. In che anno era? Io degli anni non me ne intendo. Credo che fosse il 538. Non vorrei dire una cavolata. Ovviamente dopo Cristo. Beh, certo. A quanto io non sono sicurissimo, però credo che sia Dicci, dopo Cristo. Il Dicino? Come che andiamo a cercare? Anno Domini 538, va bene. Invece, andiamo a vedere. Essendo questo poi... Giorgetto. Allora, siccome siamo a marzo, di cui io sono un esponente illustre di questo mese, come voi tutti sapete, qualche giorno fa ho compiuto gli anni, quindi insomma questo evento lo racconto proprio in maniera abbastanza personale, e come l'avevamo anche ricordato qualche tempo fa, l'Acquario di Bruxelles organizza una serata ovviamente dedicata a chi? Agli acquari. Lo so che tu pensi al tuo segno. Che devo fare? Giustamente, no? Va bene, allora l'acquario celebra i pesci, così the other way around. Vabbè, i pesci cosa fanno? Celebrano l'ariete che celebra quello dopo, com'è? Questo non lo so, magari possiamo inventarlo a Bruxelles. Sagittario e Capricorno. Vi dico quello che accade in questo certo periodo. Che il leone che celebra la Vergine, insomma, questo un po'. Potrebbe essere. Certo, tutto. Noi gliel'auguriamo. Sì. Ovviamente, no? Certo. È la migliore delle celebrazioni. Assolutamente sì. E in effetti, fino al 20 marzo, è su presentazione di un documento di identità. Tutti gli adulti nati sotto il segno dei pesci tra il 20 febbraio quindi e il 20 marzo avranno l'entrata gratuita. Quindi, cari amici dei pesci, tutti quelli nati proprio in questo periodo, vi suggerisco veramente di andare a vedere questa mostra, perché non è che festeggiamo tutti i pesci così com'è, voglio dire, e celebriamo quelli che apparentemente sono purtroppo minacciati da estinzione, e quindi in realtà è veramente un'occasione d'oro, un'occasione pressoché unica per a poter ammirare delle specie che probabilmente tra qualche tempo non ci saranno più, e d'altronde questa è veramente una straordinaria opportunità per osservare, però anche capire, rispettare, responsabilizzare, insomma sono argomenti di cui tra l'altro la sustainability, di cui abbiamo parlato molto spesso, di cui la nostra Imola si è fatta portavoce a più riprese, e effettivamente questo è un momento in cui si possono fare anche questi tipi di riflessioni. Quindi, per quanti volessero saperne di più, l'Aquarium Public di Bruxelles al centro di acquariologia, Avenue Emile Bossard 27, 1000 Bruxelles, ovviamente gratuito per tutti gli adulti nati sotto il segno. Mi stupisco che abbiano indicato solo gli adulti, ma anche i bambini, accompagnati anche credo i bambini. Credo che i bambini abbiano comunque l'entrata gratuita, no? Probabilmente. Non sono esperta, non so. Potrebbe essere. Però effettivamente potrebbe essere. Questo ovviamente fino al prossimo 20 marzo. Se siete taccagni, tirchi, ma intraprendenti, potete anche presentare un falso passaporto. Non se ne accorgeranno. Dipende dalla foto che c'è sul passaporto. No, un falso passaporto con la falsa data di nascita, perché se no, Giorgio, uno si presenta e dice: io nell'oroscopo cinese sono carpa. Va benissimo, ma la carpa non è nata sotto segno dei pesci. Era un modo come un altro per purgagnare la possibilità d'entrare. E ovviamente, eccezionalmente, durante questo mese l'acquario avrà come sottofondo la famosa canzone nata sotto segno dei pesci di Antonello Venditti. Perché l'acquario? No, dico, durante questo mese nell'acquario, nel museo, ci sarà una musica di sottofondo che sarà Antonello Venditti. Con magari se non lo sanno, glielo suggeriamo per il prossimo anno. Non sanno, non lo sanno. Non lo sanno. È certo che non lo sanno. Va bene. Vada, o vado io con la questa. Vai tu con quella. Non so se a voi piacciono i sottaceti, però oggi parliamo di qualcosa di simile ma diverso, come tutto ciò che è in Giappone. E con questo anche approfitto per salutare i nostri amici giapponesi che, poverina, hanno avuto questo disastro dallo tsunami, dal terremoto, adesso hanno questa spada di Damocle pendente. Beh, a loro va tutta la nostra solidarietà. Ma veniamo a delle cose un po' più così, più frivole, senza però dimenticarli, e che è la finta giardiniera. La finta giardiniera. Beh, è una pièce teatrale o? È una pièce teatrale, brava, brava, una pièce teatrale che si terrà alla Monet. Però. Sì. Interessante, la finta giardiniera che va alla Monet, mi sembrava. Dal 13 al 30 marzo, ovviamente. Quindi siamo assolutamente in tempo. Quanto costa l'entrata? Allora, preparatevi. Dai. 18 euro. No. Di più. Siamo alla Monet. 23. Va dai 10 ai 108. Alla Monet non si fa altro che tirare fuori degli spiccioli. Bravo, esatto, questa è una bella battuta. Vabbè, però da 10 euro si può da anche 10 fare. 108, sì, 10 euro praticamente è sotto le scale. 10 euro ti mettono lì a fare il gobbo. Sì, esatto, una cosa del genere. No, 10 euro hai diritto a vedere i primi 10 minuti e poi dopo ti mandano via. Allora, comunque c'è anche 108 quando sei davanti con l'attore che gli dici anche vuoi una patatina mentre lui sta facendo lo spettacolo. No, spero che sia l'attore a non sputare niente, perché è ciò che succede di solito, ma è bello andare a casa con lo sputo di un grande attore. Preferisco semplicemente l'autografo. Non ti lavi per una settimana. Beh, magari ti metti il burka in quell'occasione. Che ti metti? Il burka. Con le perline. Cioè, qualcuno dice sempre è inutile. No, qualche volta serve. Il tipo in questo caso. Vabbè. Beh, comunque, allora, in questo angolo di natura eterna, le strade di Sandrina e di Belfiore si incrociano nuovamente, ma il sentiero dell'amore, malgrado l'aiuto di amore, del dio amore, non è sempre cosparso di rose. La violenza della gelosia questa è indimenticabile. Nell'86, quando è stata fatta la prima produzione, un universo estremamente raffinato e poetico di Carl Ernst e Ursel Herrmann ha permesso ai personaggi della finta giardiniera di svilupparsi e di svelare le loro vere dimensioni. Abbiamo scoperto una nuova opera di Mozart. Così scriveva la stampa. Questa produzione non è solamente un piacere per l'occhio o per l'orecchio. L'umanità universale che caratterizza i personaggi contribuisce così a ciò che non aveva perduto della sua freschezza un quarto di secolo più tardi. Insomma, una possibilità squisita di vedere o rivedere questo spettacolo mitico. Vabbè, allora, direzione John Nelson, cioè regista John Nelson, con mise en scène, e qui sarebbe da andare a vedere, di Carl Ernst Ursel Herrmann. Ma se io trovo un biglietto a 25 euro posso andare, di più mi sembra. Insomma, basta andare a vedere. 25 euro mi sembra un buon valore, no? Probabilmente c'è, insomma, l'opera lirica comincia a interessarmi lentamente, soprattutto se ci sono dei registi in gamba. Ora ti prendo un attimo così, Sai se le teste matte organizzano qualcosa nel prossimo futuro? Come no, le teste matte stanno organizzando uno spettacolo teatrale, ma non solo le teste matte, anche la bottega magica. Ambetré. Stanno organizzando Ambetré. Si dice Ambetré? Ambedue. Perché sono due. Se fossero tre si direbbe Ambetré, chi lo sa. Ma si dice Ambarabasi Cicocò. Tra le scenette sul Comò, e quindi ambedue stanno organizzando. Il titolo te lo ricordi? No, non mi ricordo il titolo né dell'una né dell'altra. In questo momento ho un vuoto di memoria totale. Non sapevo nemmeno che San Patrizio era il patrono dell'Irlanda e perché lo era. Lo sapevi, l'avevi semplicemente rimosso. In questo momento ho rimosso qualsiasi cosa. Comunque ci sono due pièce teatrali di cui daremo contezza a breve, perché in realtà tutto si svolge verso la fine di marzo. No, inizio, a metà aprile. Ecco, verso il 9. Avevo insomma letto qualcosa in merito, 9, 10, 11 aprile per le teste matte, per la compagnia, quell'altra, la bottega magica, non ricordo esattamente, però ve ne daremo notizia la prossima settimana. Preparatevi però, perché una al Bosar, la bottega magica, l'altra invece al teatro Sant'Agostino. Insomma, vedremo, vi daremo ancora notizie, perché insomma sono compagnie italiane. C'è ancora tempo, ma sono compagnie italiane e vale la pena di sostenerle, insomma far sì che il teatro italiano, anche se solo amatoriale, ma qui il livello è sempre abbastanza buono, direi abbastanza elevato, e vale la pena che sia insomma, sostenuto. Tra l'altro fa bene a ricordare questo punto, perché dopodomani ricordiamo quindi quelle che sono, quello che è il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e vi ricordo che la comunità italiana, quindi voi tutti, siete invitati a partecipare al consolato a questo concerto che proprio sarà eseguito venerdì giovedì tra le 18 e le 20, e sarà poi replicato venerdì al Teatro San Michel, sempre tra le 18 e le 20, e questa sarà anche l'occasione per incontrare un nuovo ambasciatore, e insomma penso che sia, pensiamo che siano due eventi abbastanza importanti intorno ai quali ritrovare la comunità italiana qui a Bruxelles. Non vorrei errando, ma mi pare che ci sia anche una pièce di Paolo Gaio. Penso di sì, perché poiché non posso partecipare a entrambi gli eventi, insomma, penso di sì, però. Sì, è uno spettacolo, cioè è un concerto musicale con parti appunto recitate a cura di Paolo Gaio, mi sembra. E sarà replicato anche l'indomani al Teatro San Michele. Sì. Il chitarrista chi è? Chi è? Jimi Hendrix. No, forse Giacomo Nariccia. Ah, Giacomo, che è stato pure il nostro ospite qualche tempo fa. Quindi, insomma, ragazzi, in bocca al lupo. Dovrebbe, questo sono un po' ammetto di essere un po' impreparato, dovrebbe essere lui. Oggi, stasera, Giorgio, ti colgo un po' impreparato. Eh sì, beh, insomma, capita. Ci vuole. Altrimenti con mica si aggiornano le pagine della Bruxellandopedia, scusa, quello. Solo così si possono aggiornare le pagine, altrimenti. È vero, se no tutto si stratifica, poi si rigidisce. E si dimentica, e invece così. Come lacrime. È come quando vai su quei siti internet che ti dice che sono momentaneamente sospesi per technical maintenance. Ecco. Oggi Giorgio è sospeso per technical maintenance. Sì, è vero, c'ho una fame incredibile, fame blu, sono stanco, c'ho sonno, insomma non va bene niente stasera. Dai! Pouvrin, vedi. Per salutarci, quindi, prima di lasciare la parola alla nostra Imola, un ultimo evento, probabilmente non è... cade in un momento poco felice, insomma lo ricordava prima George, il Made in Asia. E quest'anno giungiamo alla terza edizione, tutti gli anni è stato sempre organizzato alla metà di marzo, quindi anche quest'anno tra il 19 e il 20, quindi tra venerdì e domenica, questo evento è veramente straordinario. Pensate che venerdì sera l'entrata è gratuita e sarete accolti da 10.000 metri quadrati in un ambiente conviviale, culturale e ludico, e ci sarà modo non solo di degustare quelle che sono le specialità asiatiche più importanti, ma anche proprio approcciarvi all'arte, alla cultura, alla lingua cinese, giapponese, insomma all'infinito mondo che ruota intorno all'universo asiatico. Quindi non vi dimenticate tutto questo all'Eisel, come al solito al Bruxelles Expo, a Place de la Belgique 1020 all'Aachen, il venerdì sera. L'entrata è gratuita, mentre poi la tariffa weekend è di 20 euro, oppure il sabato o la domenica di 8,50 euro dalle 10 alle 18. Quindi io cederei la parola a Imola. Io non ho la sigla oggi, mi hanno lasciato. Si è scaricata la batteria. Oggi Giorgio la batteria e... Grazie per la carica temporanea della batteria. Stasera stiamo parlando di un libro, cioè, praticamente secondo me è un nuovo classico, cioè, scritto negli anni 40, no, anni 50, diciamo, anni 50, anni 60, quindi generalmente, stranamente, non chiamiamo mai i libri di più recenti classici, non necessariamente. Comunque questo secondo me è un classico. L'autore è Hans Fallada, il titolo è Ognuno muore solo. Ah, questa qua mi sembra c'è qualche riferimento anche a italiano. Ed è un libro in cui si tratta del Berlino durante la guerra. E ci mostra questa città in una luce completamente diversa rispetto alla luce in cui siamo soliti di guardarlo, perché siamo soliti guardarlo con l'odio di quelli che da fuori guardano dei mostri, cioè come è successo, stiamo guardando Hitler, stiamo guardando i campi di concentramento, stiamo guardando e non vediamo mai degli individui necessariamente impauriti dentro un sistema in cui qualsiasi tuo vicino potrebbe essere una spia, in cui qualsiasi azione, qualsiasi parola può essere interpretata in un modo da gettarci fra le mani del Gestapo, può essere torturato, e, eccetera, eccetera. Dove un sacco di giovani sono mandati in guerra e dove i genitori non necessariamente pensano che questo sia un sacrificio da fare per il Reich, diciamo. Meno male. Cioè, è la paura che praticamente scusate, è il protagonista di questo libro. La paura che la gente sente continuamente, che gli impedisce anche di ribellarsi veramente. E quello che succede, questa è la storia di una resistenza personale. E il titolo dice: ognuno muore solo, perché queste resistenze sono abbastanza solitarie. Non si riesce a collaborare contro questo potere che è troppo in controllo anche dei pensieri, anche della vita quotidiana. E quello che fa il protagonista è che scrive delle cartoline su cui denuncia il sistema. Queste cartoline, il 99% delle cartoline è praticamente denunciato immediatamente al Gestapo, perché tutti hanno paura. Non è che queste cartoline alla fine hanno un effetto dal punto di vista della resistenza, ma l'effetto che hanno è piuttosto di pronunciare il disaccordo della persona, dell'individuo, che è il suo unico modo per almeno pronunciare il suo io non voglio questo, non ha altre opportunità e altre possibilità di farlo, e quindi lo fa, e lo fa per 2 anni con successo senza essere preso, ma poi prima o poi tutti commettono un errore, anche lui commette l'errore, è preso. Ci sono anche altre resistenze che troviamo dentro il libro, la resistenza di semplicemente di non fare attivamente qualcosa per il Reich, o anche la resistenza nella forma di per esempio c'è una donna che smette di fare parte del partito. Quello già è una cosa difficile, perché praticamente rischiavi di finire in un campo di concentramento. Lei lo fa e ci riesce, e riesce anche a sopravvivere. Praticamente lei è, diciamo, una figura della speranza dentro il libro. Ci sono degli altri invece che vivono, che cercano di fare questa dimostrazione un po' più attivamente, ma sono sempre sott'occhio, diciamo. E quello che è chiaro, cioè, questo è un libro semplice, tu sai probabilmente già dall'inizio che cosa succederà alla fine, non ci sono delle sorprese particolari dal punto di vista di dove ti porta la storia ti porta alla inevitabile presa, alla inevitabile condanna, però allo stesso tempo ti descrive la libertà che questa coscienza, diciamo, pulita porta alla gente, cioè la coscienza del disaccordo può portare alla gente. Non lo so, purtroppo non ho letto ancora le ultime pagine, cioè, so benissimo che cosa succederà, cioè, non è che ho bisogno. Cioè, diciamo che le belle cose sono le persone di come agiscono, che cosa imparano, di che cosa fanno, ma tutto è presentato in un modo semplice, anche in un linguaggio abbastanza semplice, non fiorito, però molto efficiente e molto ben costruito. Asfalada è sempre un buon, diciamo, un padrone della sua storia, e si può raccomandare anche per ricapire, diciamo, che cosa vuol dire una dittatura, per ricapire quanto è facile arrivarci, quanto è facile che la paura faccia una cosa sopravvivere che a nessuno piace alla fine. E questo secondo me rende questo libro anche senza tempo, e ve lo raccomando calorosamente. Ma guarda, tu pensi di cavartela così in fretta? Sì. Beata sincerità. No, invece mi interessava allora perché leggere questo libro? Alone in Berlin. No, ognuno muore solo. Ah, questa è la traduzione italiana? Sì, sì, sì, è questa. Invece il titolo originale? Jeder stirbt für sich allein. Ah. E che è molto più carina perché vuol dire che tutti muoiono per se stessi, sì, fondamentalmente. Sì, soli, ma anche per se stessi, perché non riesci a morire per gli altri, perché per gli altri non riesci a fare niente, alla fine. Stai morendo per la tua propria salvezza, per la tua propria... ti condanni con i tuoi atti e muori e non sei riuscito a cambiare il sistema, sei riuscito soltanto a cambiare te stesso, magari un'altra persona nei tuoi dintorni. Beh, però questo forse bisogna analizzarlo un po' meglio, perché mi pare che qualcuno sia morto recentemente bruciato vivo, nel senso che si è bruciato e ha dato la scintilla a quello che stiamo vedendo nel sud mediterraneo. Quindi qualcuno è morto, sì, per qualcosa, per non parlare poi della religione cattolica che si basa su un sacrificio umano. Sì e no, diciamo che guardiamo per esempio il caso dell'Egitto, se vogliamo già fare delle interpretazioni, ma guardiamo anche il caso della Libia, dove adesso Gheddafi praticamente sta tornando e sta praticamente ripulendo tutte le case. Che cosa puoi fare? Cioè, tu puoi non... La resistenza non è sempre possibile, è possibile fino ad un certo punto, e poi c'è un attimo in cui c'è la resistenza comune che proprio riesce a tenere lontano un dittatore, non è possibile, e questo libro è su quella situazione in cui non è possibile. Sarebbe, è sempre possibile, ma fondamentalmente non è possibile, perché tutti vivono in una pallina di paura che non permette la connessione fra la gente, e proprio non permettendo più la connessione fra la gente, non permettendo nessun mezzo di rivolta, è con questo che praticamente si annienta la possibilità di cambiare qualcosa dall'interno. Stiamo andando nel profondo, dunque, sì, allora questo mi era un po' di pensare, sono un po' disattivato. Low battery. Ripeti questo concetto sull'involucro, scusa. Con altre parole, magari non ci arrivo. No, cioè, diciamo che se io comunico con te, già sto incorrendo un rischio. Certo. Il rischio è che tu non sei quello che sembri. Mm-hmm. Tu sei qualcuno che 5 minuti dopo mi denuncerà dalla Gestapo, diciamo, okay, o da chiunque, cioè, Anastasia, qualsiasi altra cosa. Qualsiasi cosa. Da questo momento in poi, per me, parlare con qualcuno è ogni volta un rischio. Quindi devo scegliere molto bene con chi sto parlando. Sì. Diciamo che attorno a me io non riesco a parlare con nessuno alla fine, perché ho sempre paura che quello con cui parlo mi possa tradire, nel senso, nel caso se io tradisco qualcosa. Sì. Che è contro il regime, e questa paura fa che la gente che prende una, per esempio, una cartolina che denuncia il sistema, immediatamente lo dà via. Perché? Perché averlo è già incriminante, e qualsiasi persona avrebbe potuto vedere, e da quel momento in poi la mia vita, di quello che non era originalmente coinvolto, è in pericolo, perché il regime non sceglie. Ammazza, non si interessa particolarmente. Fa due cose fondamentalmente: inculca e ammazza. Queste due cose allo stesso tempo. Questa si chiama propaganda, in altri termini. Sì. Io direi che per questa sera va bene così, perché altrimenti. In che senso? Io volevo fare ancora una mezz'oretta di trasmissione, non possiamo? Niente mezz'oretta in più di trasmissione. Ti ricordo che ci sono i nostri amici. Perché George, qual è il detto di Bruxellando? Tempus. Beh, il Tyrannosaurus Rex. Quindi, insomma, è un detto che non sbaglia mai, devo dire la verità, effettivamente l'abbiamo indovinato. Bene, io ringrazio Imola, anzi, quasi quasi mi presti il libro così lo leggo. Purtroppo è in prestito, però... facciamo il prestito del prestito. Oh, ragazzi, io vi voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che domani l'altro è 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Certo. Beh, allora, lo accennavamo anche prima, insomma, è un evento importante. Noi stiamo preparando una puntata speciale con i nostri colleghi di Giro di Boa, quindi insomma non ce ne siamo dimenticati, e siamo ancora all'inizio del 2011, quindi insomma l'anno sarà ricco di eventi. Comunque ovviamente un evento importante da ricordare, è stato un evento che, a cui oggi noi dobbiamo molto, ci sono state vite, come diceva prima Imola, sacrificate in nome di un ideale, in nome di un valore che è giusto ricordare, rispettare e conservare proprio nella memoria. Quindi buona festa, diciamo, dell'unità, se si può dire, a tutti quanti, sì, sia certo, qui a Bruxelles, in tutte le comunità italiane, nel mondo, agli italiani d'Italia, tanto avranno un giorno di libertà, e gli studenti apparentemente qualcuno in più, quindi beati voi. Ringrazio Dani e mia regia, ringrazio la nostra Imola, ringrazio Georges Laurent, che anche se stasera era un po' low battery, ma capita, altrimenti non c'è l'update. E ovviamente ci ritroviamo, vi auguro buona settimana a tutti e a ben trovarci, a prestissimo. Ciao!